Diciamo che noi siamo nella fascia alta del mercato, quindi ci tocca sicuramente la svalutazione del dollaro, del cambio del dollaro e la rivalutazione dell'euro, e contemporaneamente noi ci tocca direttamente anche la rivalutazione dello yuan, cioè la moneta cinese, che da una parte ci condizionano le vendite, in quanto vendendo nell'area del dollaro chiaramente i nostri incassi calano di mese in mese nel loro valore al momento che andiamo a cambiare poi in euro. Contemporaneamente i prezzi ci aumentano perché lo yuan si sta rivalutando come si sta rivalutando l'euro, e comprando in dollari tutti i mesi dobbiamo pagare un prezzo superiore. Quindi sicuramente non siamo favoriti da questa situazione economica estremamente complicata e difficile in questo momento. Noi inoltre un'altra grandissima problematica l'abbiamo perché noi lavoriamo materia prima, lavoriamo il cashmere, quindi come tale siamo produttori di cashmere, e siamo produttori di cashmere in Mongolia, in Mongolia meglio, in Cina. Quindi che cosa succede? Che in questo mondo in cui che sta cambiando velocemente, in cui la Cina è il primo attore, dove l'industria tessile è uno degli elementi primari per lo sviluppo di questo paese, che ha un PIL che varia dal 10 al 12%, figuriamoci, questa materia prima è indispensabile al loro sviluppo, tant'è che i maglifici in Cina crescono nella misura del 28-30% all'anno. Quindi le difficoltà per noi crescono ancora di più in questa logica, in quanto noi cresciamo, i nostri clienti hanno bisogno in continuazione di materia prima pregiata, e quindi altrettanto crescono le difficoltà per acquistare questa materia prima e portarla in Italia. Questa è una delle principali problematiche che abbiamo oggi. Contemporaneamente certamente anche il problema del cambio è un problema fondamentale, tant'è che non c'è discussione con un cinese che non si parli di rivalutazione della loro moneta e di aumenti di prezzo. Per il futuro che cosa prevediamo? Sicuramente noi stiamo, negli ultimi 5 anni siamo cresciuti, abbiamo raddoppiato i chili prodotti, e abbiamo un articolo che è molto richiesto perché la fascia alta del mercato è una fascia dove il cashmere è primatore, soprattutto il cashmere di altissimo pregio, di altissima qualità, quello che produciamo noi. Tanto per intendersi, i nostri clienti sono Loro Piana, Zegna, Cariaggi e quant'altro, le migliori aziende, le migliori filature d'Italia, senza considerare Todd Duncan, Johnson, eccetera, le migliori filature della Scozia. Abbiamo un mercato molto importante, sia in Europa, vendiamo in Cina, noi vendiamo in Giappone, vendiamo in Corea nella misura di un 20%, e il resto, il rimanente, diciamo, vendiamo in Italia 50%, 30% in Europa. Abbiamo già venduto, per farvi capire l'importanza dell'articolo, noi alla data di oggi abbiamo già venduto il 70% della produzione nostra per il 2008, quindi una fase di crescita notevole, perché il Made in Italy, la qualità, sta premiando, e contiamo di seguitare a crescere su questa strada.